bisogna tornare con intelligenza sul tema delle liberalizzazioni. Io non credo che basti una norma manifesto, penso che occorra esaminare punto per punto dove c'è il nodo che impedisce al mercato di svilupparsi liberamente, e lì fatta un'analisi molto seria dei costi e dei benefici di una liberalizzazione, procedere con decisione, però usando il bisturi, non usando l'accetta. Questo vale per le professioni, vale per i grandi monopoli di Stato e vale anche naturalmente per i servizi, perché non è detto che adesso per forza dobbiamo tenerci tutte queste IRI locali. In fondo è vero che c'è stata una battuta d'arresto, però è anche vero che il trattato impone che i servizi, il trattato europeo ci impone che i servizi europei debbano essere affidati a gara e quindi debbano essere comunque oggetto di un mercato.